pensando até, Jesus, sapendo che tu sei re dei re. Ti offro la mia vita, prendila Signore per te, lascio ogni mio peso qui davanti a te. Io ti offro la mia vita, usala Signore per te, e lascio ogni mio peso qui davanti a te. Qui davanti a te.